Si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Carlo, buongiorno, come stai? Tutto bene? Buongiorno, benissimo. Buongiorno a te, Laura, e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. E diamo il buongiorno anche a Carmelo Lauricella, che oggi è in regia, Barbara Bianchi, che è in assistenza. È una giornata nella quale... Ovviamente, come sempre, ci potete contattare al numero verde 800 24 0024 oppure scrivere al 349 238 6666 per tutti i vostri commenti via WhatsApp o via SMS, perché gli SMS si usano ancora, sai, alla fine ne arrivano e io ne ricevo, tu ne ricevi ancora? Certo che ne ricevo, sì, poi molte volte, tipo mia mamma a volte non sa se è un SMS o un WhatsApp, dice ti ho, li chiama tutti SMS, diciamo. Io direi che possiamo recuperare la questione di ieri, ovvero a chi dedichereste un albero. Siamo partiti da una notizia a Firenze per cui 400 alberi verranno piantati e si può dedicarli a chi si vuole con una spesa di 150 euro. Ecco, noi vi chiediamo, senza spesa di 150 euro, nel senso che non verificheremo se ci avete fatto un bonifico, se volete, a chi dedichereste voi un albero. Tu ci hai pensato a chi lo dedicheresti? Prima o poi dobbiamo svelarlo anche noi, però, perché insomma dobbiamo dare il nostro contributo. Hai ragione. Dobbiamo dare il nostro contributo. Tu hai il tuo contributo della domenica, di lettura, sì, o signore, di visione questa settimana? Di lettura. Ho letto veramente un libro stupendo, un romanzo che ti cattura fin dall'inizio, una storia pazzesca che... parte da lontano, però in realtà per parlare di oggi e anche accompagnarci nei dubbi che avremo in un futuro molto prossimo, anzi forse un futuro che è già qui. L'ha scritto Jeanette Winterson, che è quella di Non ci sono solo le arance, di Perché essere felici quando puoi essere normale, che magari conoscete. È edito Mondadori e si intitola Fran Kissstein. Scritto come Frankenstein, ma con al centro Kiss. Il titolo non mi convinceva, lo ammetto, ma a metà lettura vi sembrerà perfetto. Il sottotitolo è Una storia d'amore. Si parte con Mary Shelley, sì, proprio lei, Mary Shelley, la moglie di Percy Shelley, che non se ne stava certo un passo indietro, perché è quella che nel 1816, a soli 19 anni, sta elaborando il suo famosissimo romanzo Frankenstein, appunto, quello che conosciamo tutti, quello col dottore che riesce a dar vita a una creatura. Però poi c'è un'altra vicenda, l'altra vicenda di cui si narra invece si svolge oggi, coinvolge un medico, la vita dopo la morte, l'intelligenza artificiale, uno scienziato che sta cercando di salvare il cervello degli uomini, ma su un supporto esterno che non sia il corpo umano, perché il corpo umano comunque sia sarà deperibile. Ma tutto ciò per parlare di chi siamo noi oggi. Siamo solo la nostra mente, noi uomini? I robot sostituiranno gli umani? Ci si potrà innamorare di un computer? Ecco, ai temi fondamentali della Winter sono il genere, la complessità della sessualità, i limiti della libertà individuale, la vita delle idee. Si aggiunge una domanda: cos'è la realtà? Chi siamo? Chi siamo stati? Chi saremo? Chi abiterà questo pianeta in futuro? Riusciremo a trovare un modo di proseguire la nostra avventura all'infinito, oltre la morte? Ecco, tutto questo che sembrano dei temi anche complessi, in realtà vi investirà, ma senza il minimo sforzo, perché voi starete cavalcando sempre più curiosi queste due, o forse quattro, direi, incredibili storie d'amore, che ovviamente avranno dei punti di contatto. Ma è un romanzo che proprio si legge, lo si beve, come si suol dire. Da tempo non leggevo un romanzo così piacevole e sconvolgente insieme. Lo dedico alle due ragazze di Potenza e di Sunderland, Inghilterra, prese entrambe a calci e pugni per il solo fatto di essere lesbiche, perché la lettura di questo libro frantuma qualsiasi traccia di omofobia, portando la questione del genere ad altissimi livelli. Allora, io invece ti voglio portare su un piano molto più basso, dopo quello che è complesso e articolato sul quale ci hai portato tu, che è un festeggiamento che abbiamo di fronte, nel senso nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, un festeggiamento particolare, la giornata europea del gelato. Del gelato. Sì, esiste anche quella. Esiste anche quella. E effettivamente, vedi, c'è gente che esulta in regia, perché c'è la giornata europea del gelato. Si terrà il 24 di marzo, ma in questi giorni ci sono i preparativi, ci sono le anticipazioni, e tutto questo accade al SIGEP, che è un salone mondiale del dolciario artigianale, cioè un posto dove io è meglio che non vada assolutamente, perché potrei andare via in barella da lì. Nemmeno il io, perché SIGEP, sono a dieta, quindi quello è proprio è l'inferno. Non lo so, poi lì sono tutti professionisti, quindi parleranno di cose molto diverse, non passeranno, immagino, il tempo ad assaggiare di qua e di là e a farsi venire il mal di pancia. Comunque si svolge il SIGEP a Rimini, e da Rimini è collegato con noi Ferdinando Bonocore, che è un consigliere di Art Glass. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, è una confederazione internazionale di artigiani del gelato, non so come possiamo presentare Art Glass. Sì, è la confederazione delle associazioni nazionali di 7 nazioni che fanno parte della comunità europea: Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda e Spagna. Specializzati in gelato. È molto probabile che da lunedì passeremo da 7 a 8 nazioni, perché c'è una domanda di ingresso anche della Croazia. Diciamo, al contrario di quello che succede in Europa, dove abbiamo la Brexit, per il gelato abbiamo tutti che si vogliono mettere dentro. Ma le volevo chiedere una cosa: ma come mai c'è la giornata del gelato? Nel senso, ce n'era bisogno, è per ricordarsi che il gelato è buono? Perché lo sappiamo, nel senso che la giornata della memoria, che fra l'altro è fra poco, è chiaro perché viene istituita, perché siamo duri di memoria, quindi ci dimentichiamo molto spesso di tutto quello che è accaduto. Ma la giornata del gelato come mai? Giornata del gelato perché fu nel 2018 una specie di battuta, una riunione tra il Longarone Fiere e Art Glass, e venne fuori questa battuta: vogliamo chiedere una giornata dedicata al gelato. E ci siamo riusciti dopo 5 anni, perché il 5 luglio del 2012 c'è stata la dichiarazione ufficiale del Parlamento europeo, che ha dedicato quella che a tutt'oggi è l'unica giornata dedicata a un prodotto alimentare, al gelato artigianale. Il 24 marzo, perché la prima volta che siamo andati al Parlamento europeo, capitò proprio di 24 marzo, per cui il Parlamento ha deciso di stabilire questa giornata per i festeggiamenti. Ma cosa succede in questa giornata di particolare? Praticamente nella riunione noi facciamo, come Art Glass, 2 assemblee all'anno, una a Longarone a fine novembre e l'altra al SIGEP di Rimini, dove vengono stabiliti i parametri per le indicazioni da dare a tutte le gelaterie d'Europa per quanto riguarda l'edizione, in questo caso del 2020, che sarà dedicato all'Olanda, e il gusto è yogurt alla fragola. Quindi questo è il gusto dell'anno, yogurt alla fragola. Alla fragola. E quindi tutti faranno quel gelato quel giorno? Sicuramente almeno l'avranno disponibile. Almeno il 24 marzo in tutte le gelaterie d'Europa che aderiscono all'iniziativa troverete yogurt variegato alla fragola. Ma fa freddissimo in Olanda il 24 marzo, no? Ma ormai sì, si consuma tutto l'anno almeno. Il gelato sì, la stagionalità si è allungata circa 10 mesi rispetto a qualche decennio fa, che era limitato solamente al periodo estivo. Però la giornata europea, che ha come marchio Giornata Europea del Gelato Artigianale 24 marzo, si è inventata un'altra proprio per evitare che in quelle località, soprattutto balneari turistiche, che il 24 marzo sono ancora chiuso o fa ancora troppo freddo, c'è il gelato day. Infatti da quest'anno chiameremo non solo Giornata Europea del Gelato Artigianale, ma anche gelato day, che il gelato day è sempre una celebrazione della Giornata Europea del Gelato Artigianale, ma la si può realizzare in qualsiasi periodo dell'anno. Senta, ma le volevo chiedere una cosa, perché in realtà la questione del gelato mi interessa molto, perché è una cosa profondamente italiana. Direi che anche all'estero, ovunque, quando ci sono le gelaterie buone, o sono italiane o fingono di esserlo, nel senso che scrivono Italian ice cream e così via. E mi chiedevo quanto riusciamo a tutelare l'italianità di questo prodotto, cioè quanto viene riconosciuto che è il nostro gelato e quanto effettivamente siamo noi poi a farlo in tutto il mondo. Ma vede, gelato nella lingua inglese si traduce come con ice cream. Sì. Sono diversi anni che in tutto il mondo non si parla più di ice cream, perché l'ice cream per gli addetti al settore, ma anche per i consumatori, è considerato solamente il gelato industriale. La differenza, almeno in questo, sta nel fatto che noi lo chiamiamo gelato. Ah, anche all'estero quindi viene chiamato gelato. Anche all'estero viene chiamato gelato. Beh, questa è una gran notizia, è come pizza, e quindi diventa, ci siamo perlomeno riappropriati della parola. Esatto. Bene. Per cui questi due termini, quello tradotto in inglese ice cream rappresenta il gelato industriale, e il gelato rappresenta quello artigianale. Perfetto, direi che possiamo dire alle nostre scuole che la parola ice cream possono non impararla, gli italiani, almeno una, almeno un vocabolo. Certamente. Possono pretendere che siano gli altri a dire gelato. Esatto, poi gelato non è anche facile, mi immagino dei tedeschi che dicono il gelato. No, guardi, lo dicono bene. Lo fanno pronunciare molto a te. No, lo so benissimo, ho fatto la scuola tedesca, quindi non rischio, diciamo. Beh, noi siamo anche dei leader nella produzione delle macchine, no, per il gelato, quindi questo anche è una fetta della nostra economia importante. Che è molto apprezzata, ovviamente, anche proprio perché il gelato è famoso, di qualità, e quindi ci vuole la macchina italiana. È come, insomma, fare l'espresso con la macchina italiana per l'espresso. Certamente, tenga presente che sono pochissime le aziende italiane, ma detengono il 90% del mercato mondiale. Ciò significa che l'Italia fa scuola anche per quanto riguarda le attrezzature e i macchinari per la produzione di un simile prodotto. Io le volevo chiedere un'ultima cosa che non riguarda né la giornata del gelato né le nostri altissimi livelli, diciamo, di produzione, di presenza sui mercati stranieri, ma riguarda un po' più lo spreco, diciamo, no? Noi vediamo sempre queste grandi vasche traboccanti nelle gelaterie, si ha l'idea che ci sia spreco, in realtà c'è davvero o non c'è, perché insomma la situazione non è come sembra, ecco. No, diciamo la vaschetta, noi soprattutto gli artigiani non amano fare queste montagne di gelato, comunque spreco le assicuro che non ce ne sta, anche perché il gelato è un prodotto che, mantenuto a bassa temperatura, si mantiene, non è che va male, ecco, e deve essere buttato via, però gli artigiani puri preferiscono mantenersi con il livello basso, in modo da consentire una buona ventilazione delle vetrine e in modo da mantenere il gelato sempre fresco. Grazie, grazie molte. Buona giornata. Allora, grazie, buon buona proseguimento, giornata. Buona fiera, Ferdinando Buonocore, consigliere di Arglass. Adesso è il momento della viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora Carlo, ci siamo dimenticati di dare il primo indizio per il concorso della settimana. No, il quiz, il personaggio della settimana, anzi l'indovinello, come abbiamo deciso di chiamarlo. L'indovinello, giustamente. Precisamente 800 24 0024 per indovinare il personaggio della settimana, che, come diciamo sempre, può essere uomo, donna, cosa, iniziativa, animale. È che dobbiamo dire personaggio, non certo, possiamo giusto. Dire la person cosa. Allora noi adesso diamo

guidano meglio gli uomini o le donne. L'altra cosa che mi incuriosisce è se sei pagata tanto quanto gli uomini o se anche lì c'è il cosiddetto gender, come si chiama? Gap, sì, mi sembra. Gap sicuramente. Insomma, sì. Il fatto che le pay donne gap spesso vengono pagate molto meno degli uomini. No, devo essere onesta, la nostra azienda da quel punto di vista lì non fa differenze. Ci sono degli scaglioni in base alla tua esperienza, ma certo, se tu arrivi da, che hai già esperienza, un novellino, sei uguale trattato come i ragazzi, quindi da quel punto di vista lì non ci sono differenze, meno male. Ottimo. Meno e male. Invece sulla guida, illuminaci su chi guida meglio, se si può dire poi. Sulla guida, praticamente diciamo che il risultato, la grande differenza si raggiunge sempre molto di più con le donne, ma perché partono anche molto più timorose, ecco. Forse proprio per questo detto, questa usanza, partono col dire io tanto non ce la faccio, io tanto non sono capace, ma perché magari non credono in loro stesse. E invece poi durante la giornata gli fai vedere che tante volte i risultati sono migliori rispetto a quelli degli uomini, ma non semplicemente per capacità, ma perché ascoltano. C'è poco da fare, gli uomini magari arrivano un po' più pieni di sé, pensando tanto io questa cosa la so già fare. Invece comunque ci vuole concentrazione, bisogna ascoltare le nostre indicazioni, e da quel punto di vista lì la donna ti segue un po' di più. Quindi non si parla solo proprio di capacità innate, si tratta anche proprio di uno come si approccia all'insegnamento e all'apprendimento soprattutto. Certo. Senti, tu sei anche una conduttrice televisiva, quindi sul caso Sanremo, ma in generale, l'idea di essere presentata come bella e brava, perché tu sei anche bella, questo sì, chi guarda su internet vede la foto, chi t'ha visto in televisione lo sa, però insomma, ecco, ti dà fastidio questo tipo di approccio, di presentazione, prima bella e poi brava? Preferiresti rapida? Beh, sicuramente, quello sicuramente no, però io mi auguro che sia poi in realtà come ha dichiarato successivamente, però è ovvio che ascoltare le prime parole, semplicemente parlare di bellezza, rimaniamo un po' a degli argomenti un po' vecchiotti oggigiorno, bisogna un po' andare oltre anche da quel punto di vista lì. Non è che anche semplicemente per fare la modella non è che si deve essere solo brave, bisogna comunque avere carattere anche da quel punto di vista lì, perché comunque dal viso, dallo sguardo lo si capisce anche solo con quello, quindi fermarsi alla parola bello, certo, secondo me è un po' troppo riduttivo. Sono molto d'accordo, anche perché anche Hamilton è bellissimo, eppure nessuno dice va che bel pilota, cioè esatto, il suo valore esatto, principale che è esatto, proprio un bel ragazzo. Esatto, no, non lo dice nessuno. E si offenderebbe molto se uno dicesse abbiamo scelto Hamilton perché è il più carino. No, lui sì, per come è fatto poi caratterialmente probabilmente si alzerebbe e se ne andrebbe. Esatto. Ecco. Sì, poi penso, ma in generale anche nella vita se c'è un ingegnere, no, nessuno viene presentato a quell'ingegnere lì è bello e bravo. No, no, la nostra collega. Abbiamo preso un ingegnere finalmente con gli occhi azzurri. Quando è che ve lo dico? Cioè, no. Va bene, allora grazie mille Alessandra, buon proseguimento. Abbiamo capito che le donne sono più forse disponibili ad imparare, gli uomini poi alla fine si arrendono all'idea di avere un'istruttrice donna, meglio così, perché poi alla fine appunto solo l'esperienza, solo la pratica può appianare le cose, no? Come succede sempre. Abbiamo la pausa per GR24 e poi facciamo un grandissimo collegamento lontanissimo, addirittura in Australia andiamo. Verissimo, e parliamo anche di nonni dopo e di essere nonni, giusto? La nonnitudine. La nonnitudine ci piace molto, a tra poco. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Color me your color, baby. No, mi piaceva l'idea di sentire l'inizio, l'attacco quando canta. Volevo arrivare fino a quel punto lì prima di entrare. Poi mi tocca entrare per forza e vabbè, se no sentivamo per i prossimi due minuti. Puoi anche entrare cantando però, eh? No, ve lo risparmio. Ve lo risparmio. Allora, bentornati a Si può fare con Laura Bettini e Carlo Gabardini. E adesso abbiamo anche la nostra ospite dall'Australia. Tra l'altro abbiamo parlato di donne al volante. Io ieri, quando ho parlato con la prossima ospite, l'ho trovata al volante di un mezzo un po' particolare. Adesso lei ci dirà quale mezzo un po' particolare. Vorrei ricordare anche il nostro personaggio della settimana, che è da indovinare, 824 0024, per prenotarvi. Abbiamo dato il primo indizio. Il primo indizio, ricordo, è apprezzato in tutto il mondo. Bravissimo Carlo. Vedo anche, però non abbiamo fatto in tempo a comunicare con la regia, che c'è in collegamento anche un ascoltatore. Allora facciamo così, diamo la precedenza alla distanza. Chiara Esposito è in collegamento con noi dall'Australia. Chiara, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Buongiorno. Bene, bene, bene. In quale parte d'Australia ti dobbiamo immaginare? Dillo un po' agli ascoltatori. Area sud, io in questo ovest, giusto? Nel mio momento mi trovo nel western Australia, quindi Australia occidentale. E noi ti abbiamo chiamato e ti abbiamo trovato perché cercavamo qualcuno che fosse stato testimone di questi gravi incendi che ci sono stati. Ora, tu non sei nell'area che è stata maggiormente colpita dagli incendi, ma comunque un'area colpita dagli incendi che tu poi, tra l'altro, in prima persona hai dovuto partecipare a spegnere, perché hanno riguardato anche la zona vicino alla chiamiamola fattoria, anche se i metri australiani sono un po' diversi dai nostri, nella quale tu temporaneamente stai lavorando, giusto? Esatto, esatto. Io mi trovo in una cittadina che si chiama Esperance e mi trovo in una fattoria, quindi sono nella parte interna, ok? Sì. E dato che il mio fattore, il mio farmer, è un volontario, ho avuto la possibilità di poter aiutare i pompieri australiani due volte, poter spegnere gli incendi in prima persona anch'io. Sono stati un paio di incendi, di cui uno più grosso, uno più piccolo, mi raccontavi. Adesso com'è la situazione? Noi leggiamo di un miglioramento generale su tutto il continente, anche lì da voi? Anche perché piove, giusto? Sta piovendo? Esatto, sì, anche in questa zona sta piovendo. Nelle ultime due settimane, fortunatamente, anche le temperature si sono abbassate, quindi la situazione è completamente sotto controllo, almeno per quanto riguarda questa zona. Tre settimane fa abbiamo avuto un incendio bello grosso, che sono andata anche io personalmente ad aiutare, e ci abbiamo messo circa 5-6 giorni per poterlo spegnere. Però adesso attualmente è tutto sotto controllo e non ci sono incendi attivi. Ma il morale della popolazione com'è? Diciamo che sono tutti molto attivi. Gli australiani si attivano molto, ci sono tantissimi volontari. Si contattano tra di loro, hanno proprio dei gruppi di WhatsApp e si contattano immediatamente appena c'è un incendio nella zona, e i pompieri vanno immediatamente, più tutti i volontari, più tutti gli amici eventualmente, certo. Se qualcuno vuole chiamare qualcun altro, insomma, però... Grande, diciamo, solidarietà. Loro sono abbastanza abituati perché comunque è la stagione estiva, gli incendi ci sono ogni anno. Quest'anno ce ne sono stati un po' di più, però sono tutti veramente molto attivi, quindi... E senti, io ieri ti ho colto mentre tu eri al volante di un mezzo particolare, cioè di un trattore. Com'è che ti sei trovata dagli alberghi nei quali lavoravi prima adesso a, appunto, guidare un trattore? No, devo dire che l'esperienza è molto divertente. Non ho mai guidato un trattore in vita mia, quindi diciamo che qua ho provato questa esperienza. E attualmente appunto lavoro in questa fattoria per una questione di visto, quindi per poter estendere il mio visto, e devo dire che mi trovo bene, quindi sono stata anche più del dovuto, e insomma, una donna al volante, però in questo caso trattore. Però è bello, sì. Non hai fatto danni, non è che il tuo farmer, come dici tu, poi dopo ti caccia perché col trattore hai travolto qualcosa, no? Hai imparato bene. No, No, è impossibile. Al massimo posso travolgere i campi di grano, però no, attualmente non ho ancora fatto danni, anche se si dice donna al volante pericoloso stagione, però in questo caso no. Ma abbiamo sfatato questo mito sentendo gli ultimi dati, una appunto, pilota. Esatto. Senti, ma volevo chiederti una cosa: com'è la questione del negazionismo? Che sappiamo che in Australia, insomma, gran parte del governo è negazionista sulla questione del clima, il fatto che l'inquinamento faccia male o che abbia le modifiche, anzi, diciamo, climatiche siano fra le cause di questi incendi. Qualche negazionista si è ricreduto dopo questo disastro incredibile ancora in corso? O ne hai mai parlato, ecco, anche con le persone con cui lavori? Sì, diciamo di sì. L'unica cosa che, diciamo, gli australiani, quindi quello che posso anche sentire dei miei colleghi, loro si attivano molto per andare a recupero della situazione, sicuramente fanno anche tantissime donazioni e stanno cercando di fare di tutto per limitare il danno. Però certo. Tu dici non si interrogano, sì. Non proprio, diciamo che vanno più a recupero più che poi parlare. Vabbè, forse, del problema. Forse non è nemmeno troppo il momento. Effettivamente siete nel momento dell'emergenza. Aspettiamo di spegnerlo tutto, poi ci si può sedere a un tavolo e dire forse quella roba del negazionismo è stata una vaccata colossale. Vediamo. Allora, a proposito di fondi, ci salutiamo ricordando, vero Chiara, che anche tu hai avviato una raccolta fondi tramite Facebook per l'appunto per la Croce Rossa australiana, quindi ormai sei totalmente coinvolta, diciamo, in questo mondo. Sì, super attiva, anche non soltanto anche in città, tramite con i miei colleghi, abbiamo fatto delle altre raccolte fondi, sì, assolutamente. Raccolte fondi alle quali ovviamente chi è curioso può partecipare. Chiara's Birthday Fundraiser for Australian Red Cross. Vabbè, poi dopo si trova tutto appunto su internet. E poi è bello, insomma, sapere che ci si dà da fare anche per gli altri paesi, per muovere, vero, le cose, per migliorare. Anche perché funzionano. Ne abbiamo parlato poco fa di quanto in realtà queste raccolte fondi proprio per il proprio compleanno su Facebook in realtà hanno portato tantissimi soldi a iniziative lodevolissime. Ok, grazie Chiara, in collegamento con noi Chiara Esposito dalla Australia. Abbiamo la viabilità e poi ci ritroviamo con due ascoltatori. Si può fare. Ed eccoci appunto al momento del nostro personaggio della settimana. Abbiamo in collegamento con noi Bernardo da Ancona. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Bernardo. Allora, lei voleva dare risposta alla nostra domanda, al nostro indovinello. Sì, volevo provare, volevo dire gelato. Gelato, e come mai il gelato? Beh, dopo quello che avete detto tutta questa mattina, perché no? Ah, giusto. L'inflessibile notaio ha già dato la risposta. Giustamente ti stavo chiedendo qual è la notizia sul gelato. Dici, ma come, l'avete appena data voi la notizia? Anche se però il giorno è il 24 marzo, quindi mi chiedevo se c'era un'altra notizia sul gelato. Purtroppo non era il gelato e grazie mille di aver chiamato. Grazie Bernardo. Arrivederci. Arrivederci. E abbiamo Claudio da Pisa adesso. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sono su un argomento alimentare. Ah, ottimo. Sentiamo, qual è la sua risposta che ha apprezzato? Anche perché non so se avevo sentito qualcosa, anche mangia come... parli? Mangia come parli, se era stato detto un qualcosa del genere. E avevo pensato al pesto alla genovese. Pesto alla genovese, qual è la notizia legata al pesto alla genovese a quest'ora di domenica che c'ho già fame? No, ora non lo saprei dire, ma quando ho sentito la domanda e ultimamente il pesto alla genovese aveva superato anche gli altri tipi di condimenti per la pasta, mi è venuto subito così, distinto, che a dire il pesto alla genovese. Benissimo. No, non benissimo, vabbè, è andata così. Esatto. Ma grazie mille comunque. Grazie Claudio, grazie. Allora, è una grande eccellenza italiana. Beh sì, 800-24-00-24 per prenotarvi. Che dici, diamo un secondo indizio, Claudio? Claudio era l'ascoltatore. Carlo. Molto volentieri. Allora, il secondo indizio è che che è stato riconosciuto. Quindi il nostro personaggio che stiamo cercando è apprezzato in tutto il mondo ed è stato riconosciuto. 824 00 24. E a questo punto parliamo del tema che Carlo poco fa vi ha anticipato. Parliamo davvero di nonni. Nonni, lo facciamo a partire da alcune notizie di cronaca che abbiamo letto questa settimana. La prima delle quali è quella che i nonni salvano oltre 7 milioni di famiglie italiane dalla povertà grazie alle loro pensioni. Quindi sono sempre più importanti, una colonna anche economica delle famiglie italiane. E ci siamo anche chiesti se era o meno una buona notizia, perché da un lato è una notizia bellissima, ci sembra di grande coesione sociale tra le famiglie che siano i nonni, dall'altro ovviamente mette un po' una luce inquietante sulla situazione dei redditi, perché vuol dire che ci sono milioni di famiglie italiane che in realtà dipendono dalla pensione dei nonni. Precisamente, ma ci sono milioni di famiglie italiane che dipendono dai nonni anche per una funzione educativa. Verissimo. E allora il nonno moderno deve un po' aggiornarsi, o almeno deve riflettere su certe questioni che sono più degli anni 2000. E quindi a Torino Maria Re, che è la responsabile del gruppo Nonni Insieme, si è attivata appunto per rispondere ai bisogni dei nonni moderni. Maria Re, buongiorno. Buongiorno Laura, buongiorno Carlo. Buongiorno. Allora, il gruppo Nonni Insieme organizza iniziative e incontri per promuovere la cultura di una nonnitudine aggiornata. Che cosa fate quindi nel concreto? Quali sono i temi che proponete? Tantissimi temi e tantissimi modi di incontrare i nonni. Abbiamo dei gruppi che si incontrano ogni 15 giorni e si confrontano. Abbiamo un'iniziativa che si chiama il Salotto delle Nonne dei Nonni, che abbiamo già fatto per 3 volte, dal 2017 al 2019, in cui trattiamo 4 temi, chiamiamo 4 persone competenti su temi che abbiamo già discusso nei gruppi, di cui quindi i nonni sono già un po' ferrati, e nello scambio con l'esperto impariamo altre cose. Adesso organizziamo 2 aperinonni, affrontiamo 2 temi di cui magari poi parliamo un po', perché sono 2 temi bellissimi secondo me, e incontriamo quindi un'esperta che parlerà con noi, si confronterà con noi, e poi prenderemo un aperitivo insieme per poter continuare a discutere insieme. Stiamo collaborando a progetti di raccolta delle memorie con la Libera Università di Anghiari e col Politecnico di Torino, e abbiamo 3.000 idee per il futuro. Che belli. Ma che belli. Quindi possiamo dire che nonni non si nasce, ma ci si diventa, o meglio, insomma, non si nasce, ovviamente non è che si nasce nonne, ma che non è sufficiente avere dei nipoti, cioè diventare nonni è un traguardo. Diventare nonni, sì, è un percorso. Un bellissimo percorso in cui si possono imparare tantissime cose e si può entrare in relazione con tantissime persone, perché adesso ci sono tantissime famiglie in cui i nonni non sono più 4, sono 6, sono 8. Certo. Allora, quello si può fare, il vostro titolo è una meraviglia, si può fare se tutti quanti sanno stare al loro posto in modo adatto, efficace, presente con le loro idee, senza però pestare i piedi agli altri. E questo è molto difficile da fare. Ah, quindi c'è anche questa questione di non essere divisivi da un certo punto di vista, perché magari ci si ritrova in 8 nonni. sì, può capitare, perché se i genitori dei nipoti sono risposati, certo. E sono risposati, poi se poi sono risposati anche i figli. Si può arrivare fino a 20, 25 nonni e lo trovo straordinario. Io sarei felicissimo di avere 25 nonni, ma insomma, i miei non si sono separati. Ci racconta una cosa proprio nello specifico che viene insegnata? Io non lo so, magari qualcuno immagina che siano anche questioni legate alla tecnologia, per cui uno si deve. Certo. Oppure no, oppure invece che siano appunto cose più del tipo non dire le proprie idee politiche a tavola al giorno di Natale. Non lo so. A me segnava questo la nonna, cioè, né di politica né di religione. Va bene. A Natale, a tavola in generale, per una cena serena. Ci dica. Allora, si possono dire, forse, se uno le sa dire in un certo modo. Noi ci occupiamo di tutte queste cose, per esempio sulla tecnologia abbiamo fatto dei confronti serratissimi fra nonni e quest'anno, a ottobre di quest'anno, abbiamo invitato un esperto giovane che è stato bravissimo, che lavora a Alba, che ci ha fatto riflettere sul ruolo educativo dell'adulto dentro il rapporto tra tecnologia e ragazzino e bambino, perché voi vedrete sui pullman ci sono dei bambini che a un anno, 18 mesi, hanno già un telefono, un tablet in mano. Quindi bisogna porsi il problema di come gestire questa questione. Poi un'altra cosa importantissima che ci siamo posti è quella di come rispondere alle domande dei bambini. Uno dei nostri aperitivi il 30 gennaio a Torino sarà su questo tema, perché è vero che alle domande difficili dovrebbero rispondere i genitori, però i nipoti stanno tantissimo con i nonni. Allora, un nipote ti chiede: ma nonna, chi ha messo la sorellina nella pancia della mamma? Certo. Ma sai, non so, forse è meglio se lo chiedi alla mamma. Perché forse troppo non si può fare, però se il bambino continua e chiede: ma la mamma può fare poi tante sorelline? Allora, ma quindi esiste un nuovo modo, perché in realtà voi siete nonni, quindi siete stati genitori. Quindi probabilmente siete già passati da questa questione, avete spiegato ai vostri figli e alle vostre figlie, però forse sono cambiate le parole, nel senso che l'avete spiegato alle vostre figlie e ai vostri figli quando non c'era internet, gliel'avete spiegato adesso, non voglio banalizzare dicendo magari con le api e l'impollinazione, però oggi nel 2020 bisogna trovare nuove parole per raccontarlo ai figli? Sì, un po' ai nipoti, scusi. E poi il problema è proprio questo qui, Carlo, che non sono figli, sono nipoti. Giusto. E quindi c'è qualcun altro che ha spiegato loro qualcosa. Di solito la domanda arriva dopo che l'hanno già fatta a chissà quante altre persone, o prima che la facciano a tante altre persone. Quindi il nonno è soltanto uno degli elementi di un sistema molto complesso. Il genitore prende una decisione, dà una risposta, è autorevole nella sua risposta. Io che rispondo devo invece fare l'acrobata, perché devo nello stesso tempo dire quello che penso, ma non mettere, non far sentire mettere al bambino in dubbio, che certo. Ma, esatto, bravo, ma mettere è in una dubbio cosa straordinaria. Giudicare. Cioè, in realtà i vostri corsi sono praticamente di altissima diplomazia, direi. Cioè, voi dopo dovreste andare a fare gli ambasciatori, io credo, perché effettivamente bisogna mantenere tutte le posizioni di tutti i genitori, però non essere proni alle loro opinioni, ma dire la propria opinione. Sì, è appunto per quello che dicevo che dovremmo essere acrobati per funzionare al meglio. Poi anche noi cadiamo ogni tanto, a volte neanche sulle reti, perché certo, ci sono delle situazioni in giro molto difficili, sapete, perché essere nonni è bellissimo, però a volte è molto difficile quando ci sono rapporti difficili con le nuore o con i generi, ci sono scelte diverse, per esempio l'alimentazione. La nuova famiglia vegana, sì, con famiglie d'origini non vegane, può essere una cosa esplosiva che distrugge le relazioni. O la famiglia magari con religioni diverse, che adesso capita, no? Tra marito e moglie, e anche lì può essere esplosiva, decisamente. Anche lì, sì, può essere esplosiva. Abbiamo parlato tanto anche di religione, di morte, perché questi sono i temi grandi, certo, i temi che i bambini tirano fuori, perché loro sentono, temi di cui spesso i giovani genitori hanno paura di parlare. Infatti anche questo mi chiedevo, cioè se in realtà... C'è anche un po' che gli adulti di oggi, i genitori di oggi non hanno tanta voglia di occuparsi di questi temi e di nuovo li demandano ai propri genitori, ovvero ai nonni di questi bambini. O è solo una questione di tempo? Ma questa è una domanda un po' difficile, è un po' una questione di tempo certamente. Ma io l'ho adottata come mia nonna in questo momento, quindi assolutamente le farò un sacco di domande difficili. Vediamo se ce la faccio. Allora, no, dicevo, certamente i nostri figli lavorano in modo diverso da noi, perché noi avevamo un orario, poi ci potevamo portare a casa delle cose se decidevamo di farlo. Loro soprattutto avevate decidono. Uno stipendio, invece noi oggi non ce l'abbiamo. Questa è l'altra grande cosa che avete citato dell'articolo certo. che è uscito questa settimana sull'Istat, che è una cosa che preoccupa molto da una parte. E comunque sì, ci sono, i nostri figli hanno meno tempo e non so, forse hanno anche un po' più di paura, non lo so. Però certo che capita di sentire tanti nonni che sono chiamati a dare risposte tanto difficili. Certo, le chiediamo proprio in chiusura se ci vuole dare un consiglio, il miglior consiglio che può dare a un nonno o a una nonna. Il miglior consiglio di pensare prima di parlare, assolutamente, anche quando proprio ha quella roba da dire che è in bocca, che noi chiamiamo rospo e che con cui cominciamo i nostri incontri, se c'è un rospo tiratelo fuori, non tirarlo fuori. Ecco, prima di sputare il rospo pensare. Va e bene. Poi magari il rospo diventa un principe. Giustissimo. Grazie mille, la ringraziamo moltissimo. Buona nonnitudine. Buona nonnitudine a Torino. Maria Re, grazie molte. Facciamo una piccola pausa e poi il quiz. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Abbiamo deciso di rientrare per, vista la grande quantità di telefonate per partecipare al nostro indovinello, abbiamo deciso di dare subito la linea a una raffica di ascoltatori. Poi proseguiamo però sul tema della nonnitudine e proseguiamo con un taglio molto particolare, perché questi nonni sono moderni non solo perché tornano a scuola per imparare a rapportarsi con i nipoti, ma anche perché hanno abitudini diverse. E sanno, lo diciamo, anche sì, apprezzare un po' la marijuana. Sì, e ne conoscono i benefici, esatto. Medicamentosi anche, e quindi di questo parliamo tra pochissimo. Ma iniziamo da Tiziana da Sondrio, che ha chiamato per dire qual è, secondo lei, il personaggio della settimana. Tiziana? Buongiorno. Buongiorno. Buona domenica a tutti. Qual è, chi è, quale essa è? Secondo me è una cosa che io adoro in assoluto, il grana padano. Quella. Perché no. Il grana padano? Ci piace moltissimo, come l'ha detto, assolutamente. Recentemente al telegiornale, che appunto era uno dei prodotti più venduti, eccetera, poi mi è proprio venuto in mente. Quando hanno detto gelato, ho detto sì, anche il gelato. No. Ci spiace moltissimo. Sì, poi c'era anche la questione Trump, Dazi, c'era rischi per i formaggi. Dicono che era uno dei prodotti che trascinava l'export italiano, allora io mi ci sono buttata, fa niente. È tutto vero e ci spiace molto sedare questo suo entusiasmo. Rimanga entusiasta anche se la risposta è in questo momento sbagliata. Non era quella. Va bene, grazie mille. Buona domenica. Buona grazie domenica. Tiziana e buongiorno ad Antonella dalla provincia di Latina. Buongiorno. Buongiorno. La pizza. La pizza. Perché la pizza. Questa settimana cosa è successo relativamente alla pizza? Ne hanno parlato molto a livello, diciamo, mondiale per le varie farciture. Per con le... la frutta. Perché era il Pizza Day, c'è è vero. Ieri day, era il Pizza Day. O l'altro ieri, adesso non mi ricordo. Va bene, sentiamo. No. Non era questa. Non so, Laura, non so se dobbiamo abbiamo sbagliato qualche. Come mai oggi sono arrivati solo cose da mangiare? Abbiamo sbagliato qualcosa? Non lo so, chi sarà lo sa? Che sono tutti a dieta dopo Natale. Ah, allora forse al è cibo. Quello. Forse è quello. Forse è quello. Abbiamo altri ascoltatori. Grazie ad Antonella, mi pare fosse. Abbiamo Francesco da Genova. Pronto? Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno a tutti. Ci dica tutto. Il personaggio è Dante Alighieri. Dante Alighieri, come mai? Qual è la notizia legata a Dante Alighieri? Io la so. Avevo letto sul giornale che fanno un giorno dedicato a Dante Alighieri. Esattamente, è stato istituito il Dante D. Il Dante D, l'hanno chiamato D per non dire Dei, perché con Dante si sarebbe un po' rivoltato all'idea del Dei. Vediamo un po' se è Dante. Niente, niente, Carmelo continua a scuotere la testa là in regia, non l'azzecchiamo questa settimana. Tra l'altro sarà il 25 marzo il Dante D, il giorno dopo il Gelato Day. Adesso diamo un altro indizio. Vabbè, prima il gelato, poi Dante, va perfetto, avanti, via, dai, perfetto. Un festeggiamento dopo l'altro. Ne abbiamo ancora uno, sentiamo Silvano da Cuneo. Pronto? Pronto? Silvano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, io direi il quadro che hanno trovato di Kilmes, che ha 22 anni fa, che è un quadro di valore inestimabile, e l'hanno ritrovato solo questa settimana. Siamo stati in silenzio per darle la possibilità di raccontarla. Ha detto tutto giusto, ha detto anche la notizia, sì, un quadro incredibile. Vogliamo mettere proprio i puntini sulle i. In realtà l'hanno trovato prima e questa settimana è stato autenticato. Verissimo, è stato autenticato, vero. È veramente un Klimt. È lui, perché siccome era stato ritrovato in uno sgabuzzino, qualcuno ha detto: ma forse è la donna delle pulizie che ha fatto uno scarabocchio. In realtà è un quadro stupendo e anche autentico, famosissimo, e quindi siamo molto contenti del ritrovamento, del riconoscimento e anche dei due biglietti della mostra Impressioni d'Oriente che il nostro ascoltatore si porta a casa. Grazie Silvano e complimenti. Grazie, grazie a voi. Buona giornata. Domenica. Il ritratto di signora di Gustav Klimt, questo era il personaggio della settimana. Diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite e torniamo a parlare per l'appunto di nonni. È il creatore di Easy Joint. Buongiorno Luca Marola. Buongiorno, buongiorno a voi gli ascoltatori. Allora, buongiorno. Abbiamo letto ultimamente vari articoli negli USA tra gli over 65, boom della marijuana, il nonno si fa una canna, ci sono da titoli su titoli in queste ultime settimane. Intanto le chiedo di spiegare cosa fa Easy Joint, così no? Rendiamo chiaro il giusto motivo per il quale abbiamo scelto lei. E poi Easy andiamo Joint, insieme. Sì. Easy Joint cerca di battagliare da 2 anni, adesso siamo anche un po' ammaccati, per riuscire a far modificare una legge in Italia, che è la legge sulla coltivazione della canapa industriale, e aggiungere appunto la modifica della possibilità di commercializzare anche il fiore della pianta di canapa industriale, che non è una droga, non ha il THC, il principio attivo drogante, ha tutti gli altri cannabinoidi. Sarebbe un gran bene, in molti paesi fuori Italia sono, diciamo, un po' più tolleranti, ecco, forse informati sulla materia, ma ancora non ce l'abbiamo fatta. Mi viene da dire lungimiranti più che tolleranti, perché come giustamente sta ricordando lei, non si tratta di sballo, si tratta di incredibili proprietà di questa della canapa, nel senso che noi ricordiamo anche che l'Italia era il più grande produttore, forse il secondo al mondo di canapa. Poi con la questione della marijuana, quando si è iniziato a dire: ah no, questa cosa qui è lo sballo, i drogati, allora abbiamo deciso di dismetterla tutta completamente. In realtà la canapa industriale, ricordiamo, è anche un materiale pazzesco, perché sostituiva il cotone, cioè la costruzione, le corde, le cime e così via. E in realtà, come sta dicendo lei, si sta parlando anche di quanto bene faccia il CBD senza THC, che è quello, diciamo, imputato, è quello di Bob Marley, così per intenderci, giusto? E non più, e non, sì, giusto tutto, non più e non solo. Il THC è il principale cannabinoide dal punto di vista terapeutico e medico, ricordiamo anche questo. Quindi sì, diciamo, la cannabis nel suo complesso contiene più di 80 cannabinoidi, pochissimi sono stati studiati, si sa quelli che sono gli effetti farmacologici. Del THC si sa tutto, e la cannabis terapeutica in Italia è considerata quella con il THC, e poi appunto c'è il CBD, che ha altrettante importante, una importante valenza, ecco, certo, sempre terapeutica. In Italia la cannabis terapeutica, ricordiamolo, è legale dalla legge Turco sulle cure palliative è legale, viene anche prodotta nello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, e questo credo abbia contribuito anche da noi a smitizzare, ecco, la cannabis come solo quella di Bob Marley, o per la destra più estrema ci fai una canna e sicuramente finisci nel tunnel della dipendenza di altre sostanze, e appunto smontando, ecco, questa narrazione si inizia anche a capire le proprietà positive, ecco, della pianta e della sostanza in sé. Dunque, ma tornando al nostro tema dei nonni, per l'appunto, io ho qua davanti un articolo dell'Espresso del 12 di gennaio, quindi recentissimo, che segnala anche in Italia un aumento dei clienti over 60 dei negozi di marijuana, diciamo quella che light, che possiamo, appunto, che è possibile commercializzare. Lo riscontrate? Sì, da sempre. L'elemento importante fu quando partimmo con questo fenomeno 2 anni fa, e i media e i giornalisti hanno ben centrato l'argomento, ossia dicevano e si scriveva è la cannabis che non sballa, è la cannabis che rilassa, e da subito si è iniziato a introdurre il tema del cannabidiolo, del CBD, il principio attivo presente anche nella canapa industriale, e le sue proprietà. Quindi da praticamente subito si può dire come il consumatore tipo di cannabis light sia, che ne dica Gasparri, non un ragazzetto che cerca lo sballo, perché non ce n'è, ma una persona più adulta, magari più informata, che la cerca proprio per alleviare un qualche disturbo. Certo, anche perché ricordiamo che fra le patologie tipiche che vengono curate in questo modo c'è la lombosciatalgia, il glaucoma, le alterazioni del sonno, l'artrite, il Parkinson, la demenza, quindi non esattamente problematiche dei diciottenni. Sì, esatto. Stiamo sempre attenti a non far credere che la canapa industriale, la cannabis light, sia una terapia, un farmaco, questo è importante. È un supporto? Benissimo, esatto, questo sarebbe più corretto, è così. Dall'altra parte, appunto, il CBD allevia i dolori, agisce contro gli spasmi muscolari, quindi diciamo è un supporto anche alle terapie un po' più importanti, più riconosciute, e soprattutto migliora, è quello che si sta vedendo, la qualità della vita di tantissime persone. Per appunto quanto avete appena detto. Ma perché ci tiene a questa distinzione? Nel senso che in realtà mi sembra, no, è l'uso farmaceutico, quindi è un farmaco. Perché non si può dire che è un farmaco? Quello che si trova però nei negozi. Perché in Italia, uno per la legge, due per le proprietà, la cosiddetta cannabis terapeutica, farmaco, sì, che si acquista in farmacia attraverso ricetta medica, è la cannabis con una percentuale più o meno importante di THC. Certo. Perché vi sono anche tutte le malattie neurodegenerative che assolutamente hanno bisogno del THC, certo, e non soltanto del CBD. Ecco, per questo che... E quindi quello è un farmaco quando c'è il quello THC. Certo. No, chiedo la scusa. La slide dei negozietti, un po' di CBD, però è giusto, no, chiarissimo, supporto. Chiarissimo, no, ma io intendevo quella col THC, diciamo, ero più interessato a quella con il THC. Sì, anch'io, guarda, parecchio. Allora, stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, è lì che invece da lì che proviene quella col THC con cui si fanno i medicinali? Una parte. Cannabis distribuita in Italia attraverso le farmacie viene da lì. Il grosso è importato dall'Olanda o dal Canada principalmente. Senti, ma invece in Italia come siamo messi? Tu non so più se devo dare del tuo o del lei, ma non importa. Esatto. No, prima dicevi, anche perché ci siamo sentiti ai tempi della fondazione di Easy Joint, ma dicevi siamo un po' ammaccati, e immagino, perché continuano a uscire leggi nuove, cose, Cassazione. Chiedo scusa, hai ragione. A che punto siamo? Nel senso, come dobbiamo prendere la notizia della Cassazione, per cui in teoria coltivare una singola pianta sul proprio balcone non è reato perché è uso personale, e in generale a che punto siamo? Si sbloccherà qualcosa? Allora, questa sentenza è sì importante, ma insomma non è che ha cambiato le cose. Noi immaginavamo che adesso i nonni invece che i gerani mettevano le piante. Ma questo succede. Io ho a Parma da 18 anni ormai un negozio che vende semi di marijuana e tutti gli impianti per la coltivazione, eccetera. Vedo come l'età sia abbastanza in crescita. La non è soltanto esatto. Anche per le piantine da mettere sul balcone. La sentenza della Cassazione diciamo che cristallizza un comportamento dei tribunali che è abbastanza, cioè una prassi. Pochissime volte è capitato negli ultimi decenni che chi viene trovato scoperto con poche piantine in casa venga messo in galera. Spesso il giudice equipara la piccola coltivazione personale, a uso personale, alla detenzione di stupefacente, quindi applicando tutte le sanzioni amministrative previste nella legge, ma non la parte penale. La Cassazione ha, diciamo, normalizzato questo atteggiamento di buon senso che la maggior parte dei giudici ha sempre tenuto. Quindi non si è legalizzato la piccola coltivazione domestica, questo è importante, si è depenalizzato, cioè si è esclusa la coltivazione domestica da il reato, insomma, dal penale. Ah, questo già mi sembra più preciso. Più preciso di come. Beh, sì, è importante essere precisi. Sì, giusto. È veramente labile il confine tra ciò giusto. Che è possibile. E l'altra, fare, rapidamente, che siamo in chiusura? L'altra sentenza della Cassazione, invece, certifica che la legge italiana non prevede la possibilità di commercializzare la cannabis light, per cui questa è illegale, e dà la possibilità a ogni procura della Repubblica di partire con inchieste, sequestri, chiusura di negozi oppure no, un po' a macchia di leopardo. Noi, visto che ci hanno sentiti un po' di tempo fa, la novità è che io sono indagato per spaccio di stupefacente. Sono uno dei più importanti per almeno la legge in questo momento, spacciatori italiani, perché mi hanno sequestrato 640 kg di canapa industriale definita dalla procura di Parma stupefacente, a rischio da 6-20 anni di galera, e siamo andati in Cassazione per il sequestro, abbiamo vinto per metà, insomma, quindi la battaglia dal Parlamento si è spostata nelle aule giudiziarie. Ascolta, siccome sarebbe opportuno che ci mettessero una pezza e aggiustassero quella legge, ci erano andati molto vicini, esatto, con la manovra finanziaria, ma la maggioranza si è fatta umiliare, diciamo, da un cavillo del regolamento del Senato. Speriamo che abbastanza presto si metta una pezza a questo, perché si sta parlando di 10-12 mila posti di lavoro che stanno in questo momento, sono sotto minaccia, e tutta questa filiera costruita un po' sul nulla, un po' sull'entusiasmo, si sta molto velocemente sfaldando. È molto chiaro. Guarda, dobbiamo assolutamente risentirci per riparlarne, perché il tema, ovviamente, oggi volevamo parlare dei nonni e della questione, ma ci interessa moltissimo e vogliamo capirlo, e non vogliamo lasciarti da solo, soprattutto per 20 anni in galera per una roba che fino a avevano detto che era possibile fare, quindi ti ci sei messo. Esatto. Dobbiamo dare la viabilità. Grazie Luca a te. Marola, grazie. Buona. Creatore di Easy Joint. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Premio L'altro pianeta. Il premio L'altro, magari se apro il microfono è meglio. Se il premio L'altro pianeta di questa settimana va alla, diciamo genericamente, Università di Siena, che ha sviluppato, dove è stata sviluppata una tecnologia che permetterà di proteggere una delle spiagge più famose al mondo, quella municipale di Nizza, sulla Promenade des Anglais. Ce ne parla Alessandro Pozzebon, che è professore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche dell'Università degli Studi di Siena. Buongiorno, professore. Buongiorno a tutti. Allora, io le devo chiedere di condensare, diciamo, lo strumento con il quale proteggerete questa spiaggia, ma anche altre. Ne state già proteggendo in realtà in Italia. Questa tecnologia Smart Pebbles in che cosa consiste? È una tecnologia che in pratica è molto simile alle tecnologie già usate per tracciare i movimenti dei delfini, per esempio, dei volatili. In realtà è una tecnologia che viene applicata in questo caso ai sassi, semplicemente. Noi andiamo a tracciare il movimento di grandi quantità di sassi sulle spiagge e questo ci permette di capire come il sedimento si distribuisce e quindi come la forma della spiaggia varia e anche come variano i sassi stessi. Sono informazioni importantissime per capire come avviene il processo erosivo e quindi andare a identificare poi le soluzioni più indicate per andare a fare interventi di contenimento. Quindi in sostanza voi seguite il movimento dei ciottoli e ricostruite così l'origine, diciamo, dell'erosione di una spiaggia e quindi esatto. Capire poi dopo magari dove mettere un molo o qualcosa che la protegga. Esatto, diciamo che in realtà oltre al dato molto importante dello spostamento che ci permette di capire proprio la dinamica sulla spiaggia, riceviamo anche dati molto importanti ad esempio sull'abrasione del sedimento stesso, perché al di là di quello che si credeva, ovvero che l'erosione dipendesse molto da quanto il materiale veniva portato via dalla spiaggia, abbiamo visto grazie a questa tecnica che una buona parte della spiaggia si perde nei processi di abrasione, i sassi si consumano praticamente e si consumano a ritmi in realtà molto molto più intensi di quello che la scienza pensava. Tanto per fare un esempio, abbiamo visto sulle spiagge di Maria di Pisa che un sasso di marmo di Carrara si consuma del 30% in un anno e questo fa capire quanto è l'impatto del processo, in questo caso di abrasione, quindi quello che succede quando i sassi sbattono fra di loro. E quindi in 3 anni scompare il sasso? In 4 anni scompare il sasso? Allora, diciamo che sono processi che poi a un certo punto tendono a stabilizzarsi e quindi il sasso non scompare. Però quello che è interessante è che, ad esempio, l'abrasione dipende molto dalla forma del sasso. Questo vuol dire che quando si va a fare un rifacimento, se si sceglie la forma del sasso, ad esempio sassi più appiattiti piuttosto che il sasso di forma sferica, si riesce a contenere notevolmente l'effetto abrasivo. Per assurdo è molto più efficiente andare a studiare la litologia da posizionare piuttosto che fare interventi infrastrutturali come le barriere, che sono comunissime sulle nostre spiagge, che in molti casi dimostrano validità nel giro di pochi anni, ma poi sul lungo termine rischiano di avere effetti più nocivi rispetto a quelli che potrebbero avere un intervento soft, diciamo, come quelli che cerchiamo di proporre noi. Ok, quindi che molto spesso per far bene abbiamo fatto male, insomma, questo poi è il risultato di alcuni studi, no? Per cercare di proteggere con un molo, in realtà abbiamo fatto bene nell'immediato, ma non sul lungo periodo. Beh sì, questo è un problema tipicamente italiano, che molto spesso si vanno a fare interventi senza fare studi scientifici approfonditi, che richiedono purtroppo anche anni. I dati che spesso raccogliamo noi derivano da esperimenti che durano anche più di un anno, possono durare. La nostra fortuna è che questa tecnologia, noi la chiamiamo smart perché fondamentalmente c'è un po' di intelligenza, mettiamo dei sensori all'interno dei sassi, ma la tecnologia a bassissimo costo richiede di può funzionare anche per lunghissimi periodi. Abbiamo fatto esperimenti appunto della durata di 16 mesi. Certo. E questo è chiaramente oneroso in termini temporali e quindi chiaramente per tante amministrazioni è, fra virgolette, un costo. Quindi certo, si preferisce certo. l'intervento pesante, diciamo, senza poi valutarne l'effettiva efficacia. Grazie professore, noi dobbiamo salutarci. Grazie mille, molto bello occuparsi di sassi rotolanti perché sono i Rolling Stones. Rolling Stones, esatto, precisamente. In effetti dovevamo mettere quella musica e non quella dell'altro pianeta questa volta. Allora, in redazione io voglio ringraziare Andrea Piana, Edoardo Lavezzari, Danilo Di Trani, in assistenza oggi Barbara Bianchi, in regia c'è Carmelo Lauricella, da Laura Bettini, appuntamento alla settimana prossima e ciao da Carlo Gabardini, ci sentiamo settimana prossima, sabato alle 8:30. Ciao.